Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata un po' speciale, Il cacciatore di libri, perché abbiamo deciso di dedicarla alle tre finaliste del premio Rapallo Carige, premio che è stato assegnato lo scorso 21 giugno appunto a Rapallo in Liguria. Questo è un premio che esiste veramente da tanti anni e che è dedicato alle donne scrittrici. Quest'anno le tre finaliste erano Emmanuelle de Villepin, Rosella Postorino e Marina Mander, finaliste scelte da una giuria di esperti, diciamo, una giuria tecnica. Poi c'è stata una giuria popolare di una sessantina di persone che ha decretato il vincitore finale. Quindi vincitrice di quest'anno del premio Rapallo Carige è stata Emmanuelle de Villepin con il romanzo La vita che scorre, pubblicato da Longanesi. Emmanuelle de Villepin vive da tantissimi anni in Italia, però continua a scrivere in francese e si autotraduce, come lei stessa ci racconta in questa intervista. Non riesco ancora del tutto a scrivere direttamente in italiano, perché ho più vocabolario in francese, sono più a mio agio. E poi io comunque sono un'affettiva anche quando scrivo, perciò le mie emozioni vengono più facilmente in francese. E poi mi traduco e mi faccio correggere. C'è proprio un punto in questo romanzo in cui il protagonista dice che la lingua è la sua patria, insomma. Tu quindi, per esempio, sogni in francese? Dunque, nel mio caso, anzi, io volevo aprire le frontiere dicendo questa frase, perché diciamo che io sono cresciuta all'estero, sempre ho vissuto in Francia solo fino all'età di 15 anni, poi ho sempre vissuto all'estero ed è curioso, ma quando sono in America mi sento europea, quando sono in Francia mi sento italiana, quando sono in Italia mi sento francese, insomma alla fine mi sento sempre di dove non sono, e questo mi capita per tutti i paesi di cui parlo la lingua. La vita che scorre, questo romanzo è un romanzo veramente molto, molto intenso, a volte doloroso. Il protagonista è Antoine, quest'uomo che è arrivato a 75 anni, ripercorre la sua vita non in modo cronologico, ma attraverso tre date fondamentali della sua vita. La prima è il 10 giugno del 44, quando i tedeschi di fatto compiono una rappresaglia nel suo paese della Francia, dove vive con la madre. E qui c'è una delle scene forse più drammatiche, insomma, del romanzo, perché lui di fatto perde sua madre. Come influirà questa perdita nella sua vita? Lui a un certo punto dice: io sono orfano e quindi non riesco ad avere, per esempio, più legami con le persone proprio perché ho paura a legarmi a qualcuno. Quanto lo strappo dalla madre incide? Beh, sicuramente sviluppa in lui delle forti, diciamo, tendenze alla sopravvivenza, e soprattutto capisce che in qualche modo tutto ciò che ti viene di scontato nell'amore materno, invece per lui sarà più difficile, se lo dovrà conquistare. Cioè lui viene adottato in una famiglia e deve conquistare questa famiglia, imparare il suo lessico, le sue regole e trovare il suo posto. Invece l'amore della madre è più, diciamo, gratuito, totale e non da conquistare. Questo sviluppa anche in lui una forte sensibilità alle tematiche dell'esclusione e della sopravvivenza, e perciò questo suo passato lo aiuterà decisamente a capire le condizioni, capire meglio le sofferenze della figlia portatrice di handicap. È un romanzo doloroso, come dicevamo, dove ci sono molti ostacoli, molte sofferenze, anche questo senso di esclusione profonda, proprio perché lui rimane orfano e viene adottato da un'altra famiglia. A proposito del vivere e del sopravvivere, il tuo personaggio a un certo punto dice, medita, sopravvivere vuol dire aver perso tutto, vivere sopra. Vivere veramente vuol dire vivere dentro, vuol dire avere radici, una linfa di cui nutrirsi. Quindi di fatto Antoine è un uomo che sente di non aver radici anche nel momento in cui mette su la sua famiglia, cioè sposa la sua compagna Elena, che purtroppo morirà ed è la seconda data fondamentale della sua vita, cioè quando lui rimane vedovo e scopre che tra l'altro la figlia Elena è malata. Esattamente, questo potrebbe scoraggiarlo nel buttare il cuore, nel senso di creare dei legami, perché in fondo soprattutto il suo rapporto con le donne finisce sempre in modo luttuoso, no? Invece abbastanza in fretta, credo già da bambina, lui capisce che l'unico modo per cavarsela è veramente ricevere e dare amore, affetto. Io lo dico sempre, sono stata molto influenzata da Camus in fondo nello scrivere questo libro, cioè quando c'è un accanimento del destino, e capita, perché mi viene rinfacciata a volte che è un po' esagerato nelle grane del mio protagonista, è vero, ma è anche vero che nella vita capita spesso che uno dice ma proprio tutte a lui, no? E penso che l'unico modo per reagire a questo assurdo accanimento del destino, che non, a priori non c'è disegno dietro, ma è così, è tenersi per mano. Infatti anch'io quando ho letto questo romanzo ho detto veramente, insomma, è proprio sfortunato quest'Antoine, perché rimane orfano, perde la madre in modo così drammatico, poi rimane vedovo, ha anche una figlia disabile costretta alla carrozzina, eppure c'è un senso proprio di positività e di vita, per esempio nella figlia che nonostante questa disabilità riesce a realizzarsi pienamente nella vita. Tu nei ringraziamenti scrivi che questo personaggio è ispirato a una persona vera che tu conosci. Sì, lei è la mia amica, l'avvocato Lisa Noia, una persona veramente straordinaria, ed soffre di amiotrofia spinale, il che vuol dire che non ha mai camminato, è in sedia a rotelle da sempre. Lei mi ha insegnato moltissimo, perché è da tanto che io mi occupo di bambini malati o bambini portatori di handicap o bambini con grosse difficoltà. Ma lei mi ha veramente aperto gli occhi sul fatto che queste persone sono prima di tutto delle persone, non bisogna mettere l'handicap o la malattia di mezzo, sono prima di tutto delle persone. Difatti lei è una persona fortissima, con un'immensa autoironia, è una delle donne più spiritose che conosca. La terza data poi fondamentale della vita di Antoine, attraverso il quale, insomma, questo espediente narrativo lui ci racconta la sua vita, è il suo compleanno, insomma, quando si trova alla fine, oltre i 70 anni, a riflettere sulla sua vita. E lui a un certo punto scrive: l'ho detto all'inizio della mia storia, non c'è narcisismo in questo, cioè nel narrare la mia storia. Vorrei solo trovare da qualche parte la traccia di un disegno, l'impronta di una volontà che mi appartenga. Secondo te c'è sempre, dopo una certa età, questo desiderio, insomma, di capire non solo il senso della vita, ma di essere stati artefici del proprio destino? Ah, penso di sì, lo trovo anche dignitoso come atteggiamento. No, sicuramente, intanto tutto il resto dell'esistenza è votato all'azione, c'è poco tempo per riflettere, soprattutto gli uomini sono più votati all'azione che alla... Poi è vero che nel raccontare la sua vita c'è spesso un esercizio, diciamo, di narcisistica autocommiserazione che non mi è simpatica e soprattutto che non corrisponde al mio personaggio, per quello che insiste su questo. Però è anche vero che, proprio perché ha attraversato tutte queste cose, dici, beh, insomma, di tutto questo dolore, di tutte queste vicende drammatiche, cerchiamo di trovare qualcosa, un senso, lui è ateo, non crede in Dio, perciò non crede in un disegno divino, ma si chiede come mai e quali sono stati anche quali sono stati i motivi e le risorse che l'hanno fatto sopravvivere a tutto questo. Infatti è un romanzo che fa porre parecchie domande, insomma, su se stessi e sul senso delle cose. È scritto in prima persona, appunto, Antoine, un uomo. Perché hai scelto di raccontare, appunto, la storia di un uomo? Hai scelto un personaggio maschile e non una donna? Senti, questo è strano, ma tutti i miei libri li scrivo in prima persona, essendo un vecchio signore. Ma intanto mi piace molto la figura del vecchio saggio, no? Sempre. La trovo una figura vincente. E poi non lo so, penso di essere qualcuno di pudico e probabilmente il modo migliore per me per poter parlare più liberamente. Quindi è un modo per distaccarti un po' da te, insomma. Un po'. Al secondo posto del premio Rapallo Carige si è qualificata Rosella Postorino con il romanzo Il corpo docile e Einaudi. Questo è un romanzo di cui abbiamo già parlato al Cacciatore di Libri, quindi eventualmente ritrovate l'intervista integrale sempre su radio24.it. Un romanzo molto toccante, racconta la storia di Milena, una bimba che è nata in carcere perché la mamma è detenuta e quindi per legge fino ai 3 anni le madri possono tenere con sé i propri bambini. A 3 anni però vengono di fatto strappati alle madri e nel caso di Milena viene affidata a un padre che sembra essere piuttosto distante, piuttosto freddo. Sentiamo come ce lo racconta Rosella Postorino. In realtà non è completamente freddo con questa bambina, è semplicemente un uomo contraddittorio, perché contraddittorio è il rapporto che lui ha avuto con sua moglie. La moglie, la madre di Milena, si trova in carcere, io dico nel romanzo, perché ha preteso onestà. Milena dice che sua madre è una barzelletta, cioè sua madre si è trovata in carcere semplicemente perché a un certo punto, mentre era incinta di lei, ha colpito il marito, insomma, che la tradiva, che era un modo per me di raccontare come il carcere, che siamo abituati a considerare, diciamo, come il luogo che separa i delinquenti da noi, no? Di cui non dobbiamo neanche sentirci responsabili perché loro sono gli ingiusti e noi siamo i giusti. In realtà il carcere è una cosa che può capitare a tutti se in un momento della tua vita puoi seguire, diciamo, la strada sbagliata. Di fronte ad un bivio scegli quello esattamente sbagliato. E quindi lui, la madre, tra l'altro, ha impedito al marito di vedere questa figlia quando era in galera, quasi come una forma di ricatto verso di lui che non la voleva, anche se poi se l'è ripresa paradossalmente in casa. E quindi lui è un uomo di questi incapaci fondamentalmente di avere delle relazioni umane con questa, umane davvero è la parola, con questa bambina. Il punto è proprio questo, cioè la difficoltà di Milena, che è un essere umano nato in carcere, cioè nel posto più deumanizzante che esista, è proprio come poter diventare umana, cioè potersi sentire umana, potersi sentire degna dell'accettazione, del riconoscimento e dell'amore degli altri. E questo percorso parte con suo padre, che è la prima persona con cui lei si confronta quando esce dal carcere. Infatti poi la bambina di fatto viene cresciuta dalla nonna, un po' dal padre, e mi ha colpito anche, per esempio, l'amicizia strettissima che si crea con un altro bambino, figlio di una detenuta, questa amicizia che inizia appunto da piccolissimi e poi prosegue nel tempo. Che tipo di rapporto c'è fra Milena e Eugenio? C'è un rapporto di totale fratellanza, di totale solidarietà e di comunione quasi proprio di corpi. Cioè Eugenio è per Milena suo fratello fondamentalmente, anche se non lo è, ed è l'unica persona che conosce per intero la sua storia, da cui lei si sente accettata per forza di cose, perché lui c'era fin dall'inizio. Il problema di Milena è se il mondo la accetterà. Eugenio la accetta per forza, perché la conosce da sempre, quindi Eugenio è il fratello che si trasforma in amante. C'è un gioco che fanno Milena e Eugenio da bambini che è piuttosto inquietante così visto dall'esterno, il gioco delle chiavi. È un gioco che veramente fanno i bambini che stanno in galera, lo so perché appunto li ho frequentati, ma anche perché ho letto una ricerca che ormai è anche piuttosto vecchia, risale al 95, che uno psichiatra del Bambin Gesù che si chiama Gianni Biondi ha fatto sul carcere di Rebibbia. Tra i giochi preferiti dei bambini ci sono quello di giocare alle porte che si chiudono e che non possono essere riaperte. E a sentire proprio il rumore della chiave, come lo sentivano in carcere. Esattamente. È evidente che questo è, diciamo, simbolicamente il modo per dire quanto l'istituzione carcere può influire nello sviluppo psicofisico di un bambino. Lo è perché entra nel suo linguaggio, cioè i bambini dicono che bella è la tua cella quando vedono una stanza. Altra cosa che fa molta tenerezza in questo romanzo è quando Milena da piccola cerca di fare la cattiva, perché sa che chi è cattivo va in galera, ma lei in realtà non vuole tornare in galera. Per lei la galera vuol dire stare con la mamma. Esattamente, perché il problema devastante dei bambini che stanno in carcere è che a 3 anni, appunto per come la legge adesso, devono essere strappati alle madri. Come fai a spiegare a un bambino questo abbandono? Anche perché loro vivono per 3 anni in simbiosi totale con questa madre, un po' perché per queste madri loro rappresentano tutto quello che hanno e tendono a tenerli dentro anche perché hanno paura di perderli, no? Di perdere il rapporto con loro, e un po' perché appunto, cioè sei lì dentro, questo è l'unico mondo che conosci. dice tua madre, quando vai via senti di probabilmente di aver meritato questo abbandono. E Milena è così, cioè si è sentita rifiutata dalla madre, certo. E tutti i suoi rapporti nella vita adulta sono fondati su questo, cioè sul senso del rifiuto e sul bisogno dell'accettazione, che è incapace però di trovare. Terzo romanzo classificato al premio Rapallo Carige, Nessun dorma, di Marina Mander, pubblicato da Mondadori. È un romanzo che ha una struttura piuttosto originale, perché l'io narrante cambia spesso. A volte infatti si può essere presi un po' alla sprovvista, diciamo che non è così esplicito il cambio dell'io narrante, però insomma l'importante è leggere questo libro un po' tutto insieme, non a pezzettini piccoli, in modo da non perdere il senso del tutto e la bellezza appunto di questa struttura originale. Tutto gira intorno a un episodio che conoscono tutti, la finale di calcio dei mondiali del 2006, vinta all'epoca dall'Italia, quest'anno è andata decisamente peggio purtroppo, e questo episodio, questa finale dei mondiali è un pretesto per raccontare una serie di cose che accadono intorno. Ma perché Marina Mander ha scelto un evento così appunto noto per tutti, per far vivere i suoi personaggi? Sentiamola. I motivi per cui ho scelto questo grandissimo evento della partita finale dei mondiali del 2006 sono due. Uno è più personale e uno invece ha a che fare con un dato di realtà. Diciamo, quello più personale è il fatto che in quel periodo, e proprio la sera della partita, io ho dovuto occuparmi, leggere, documentarmi sulle malattie renali, sulle nefropatie. E leggendo queste cose avevo scoperto che durante i grandi eventi, può essere appunto una partita di calcio, un grande concerto di Madonna, può darsi che, tanto più che l'Italia ha vinto, in quel caso ci siano dei festeggiamenti fin troppo veementi e si finisce, ci sono dei ragazzi che magari bevono, si ubriacano, si schiantano e muoiono. In quei casi sembra incredibile, ma è un dato di realtà, insomma, si rendono disponibili giovani organi per i trapianti. Questa contraddizione enorme tra la vita e la morte mi sembrava che già contenesse un romanzo, in qualche modo è anche un tema che mi toccava in quel momento. E il dato esteriore è proprio questo, il grandissimo contrasto, che sembra quasi un ossimoro, tra l'evento felice, quest'Italia finalmente unita, che raramente così unita, il popolo italiano riunito a corte, che esulta ritrovando dei sentimenti di nazionalismo, direi, e invece le vicende private, dove la vita appunto è molto meno retorica, è molto più complessa, i sentimenti non sono bianchi e neri, non ci sono buoni e cattivi come nel calcio. Ci sono diversi personaggi in questo romanzo, ma diciamo che forse il protagonista, a proposito della malattia che citavi, è quest'uomo, Andrea. Si scopre durante il romanzo appunto che lui è malato e ha bisogno di un trapianto di reni. Va a vedere la partita di calcio a casa dei suoi genitori, e da qui si capiscono una serie di cose. Lui addirittura si sente in colpa per la sua malattia, si sente quasi in colpa anche della crisi che c'è fra i suoi genitori, perché la madre, quando poi parla in prima persona, parla di se stessa: prima ero una donna e una madre, da quando mio figlio si è ammalato sono diventata solo colei che si prende cura di. Che impatto ha avuto quindi la malattia non solo su Andrea, ma proprio negli equilibri familiari? Credo che in questo romanzo quasi sempre accade l'opposto di quello che si può pensare, nel senso che sicuramente i genitori di Andrea sono una coppia stanca che vive appunto in una propria dimensione finta, di maschere, e si lascia vivere, sia la madre che il padre sono due persone che da tanti anni si lasciano vivere. La malattia di Andrea deflagra in questo clima assolutamente poco passionale, poco desideroso, poco sentimentale anche, e devono fare i conti, ovviamente devono fare i conti anche con se stessi come genitori, e tutti i personaggi, anzi io dico sempre le persone che abitano questo romanzo, in qualche modo devono fare i conti con qualche evento, dove appunto l'evento collettivo è un evento esterno che però coinvolge 2 miliardi di persone, e gli eventi personali sono privati ma deflagrano per ognuno in un modo o nell'altro. A un certo punto la madre di Andrea, quando parla insomma del figlio, dice: vorrei che tu non fossi mio figlio. ma solo un amico di mio figlio è venuto stasera a vedere la partita a casa di amici. Vorrei dirti ciao, senza darti importanza. Vorrei potermi dispiacere per te ed essere al tempo stesso contenta che tu non sia mio figlio. In questo c'è una grande verità, insomma, che spesso le donne, le madri non riescono a dire di fronte a un figlio malato e alla fatica che questo comporta. Insomma, ci sono anche le contraddizioni del pensiero e dei sentimenti. Il tentativo è proprio di raccontare le contraddizioni e la complessità dei sentimenti, perché noi siamo portati a volte a pensare che la vita segua logiche cartesiane, no? Se A è A, non è B, e invece no, i sentimenti si muovono in costellazioni di stati d'animo e anche di contraddizioni, e forse il grande lavoro è quello di imparare a comporle, queste contraddizioni. La madre di Andrea è una donna che per tutta la vita ha evitato di questo faticosissimo lavoro di mettere insieme i sentimenti contraddittori e poi si ritrova per forza di cose ad avere appunto delle speranze che paradossalmente sono negative, cioè sperare che affinché suo figlio possa vivere qualcuno muoia, si trova però anche a desiderare forse un altro figlio, un figlio sano, perché un figlio perfetto, perché sia la madre che il padre rappresentano la perfezione esteriore, no? Di una vita assolutamente impeccabile, apparentemente ovviamente. Per lo Spazio Festival di oggi ci dedichiamo a Collisioni, un festival di musica e letteratura che si svolgerà dal 18 al 21 luglio a Barolo, provincia di Cuneo. Collisioni è arrivato alla sesta edizione, definito il festival agri-rock di letteratura e musica. Il perché lo chiediamo a Filippo Taricco, che è il direttore artistico di Collisioni. Perché festival agri-rock di letteratura e musica? Beh, è difficile non fare un festival agri-rock se uno fa un festival a Barolo, la capitale del vino piemontese, dove ovviamente l'agricoltura di eccellenza è uno dei protagonisti. Normalmente siamo abituati a vedere i concerti nei grandi palazzetti o nei grandi stadi alla periferia della città. Collisioni è un festival invece che restituisce la musica, la letteratura e l'aggregazione del pubblico a una dimensione invece di campagna, una dimensione di contatto con la natura, di contatto ovviamente con i prodotti della natura, no? A Collisioni invece ci sono i consorzi del vino, i consorzi del formaggio, i consorzi della nocciola e tanti altri protagonisti che incontrano il pubblico proprio in questo grande festa di paese che è insieme anche un grande festival internazionale. È un grande festival internazionale anche perché gli ospiti, devo dire, sono sempre di grandissimo riguardo. Partiamo dalla musica. Primo concerto, i Deep Purple. E poi? I Deep Purple apriranno il festival il venerdì. Sabato avremo in concerto Elisa, ma anche Susan Vega, ma anche Salmo e anche tantissimi altri protagonisti sui diversi palchi. La domenica avremo lo spettacolo Reading di Dario Fo e il concerto di Caparezza. E lunedì il festival si chiuderà con l'unica data italiana di Neil Young, che arriva per la prima volta in Piemonte. E allora veniamo ai libri. Insomma, fra gli scrittori sia italiani che stranieri che saranno presenti a Collisioni, facciamo qualche nome. Il parterre è molto ricco, avremo l'onore di avere qui il premio Nobel per la letteratura Herta Müller, avremo l'onore di avere qui James Ellroy, il maestro del noir americano di San Diego, avremo qui Art Spiegelman, l'illustratore, l'autore di Maus, uno dei capolavori della letteratura che ha forzato il Pulitzer a premiare addirittura un fumetto. Un graphic novel, assolutamente. Avremo qui anche Jeffrey Deaver, che presenta il nuovo libro, ma anche Jonathan Coe per parlare degli stranieri. Negli italiani appunto tantissimi ospiti, da Carlo Lucarelli a Mauro Corona, Michele Serra, Valeria Parrella, tantissimi anche musicisti che saranno in veste di scrittori a presentare libri, tra cui anche naturalmente Guccini, Piero Pelù, Francesco De Gregori. Collisioni però vive fin dall'inizio da questa commistione, no? Perché è un festival dove c'è una grandissima affluenza di giovani. I giovani non percepiscono molto le categorie, le etichette, tra la differenza che c'è tra un festival di letteratura e un festival di musica. Vivono abbastanza facilmente passando da un incontro con un regista, un dialogo su un libro, un concerto nella stessa manifestazione, no? E in realtà Collisioni, come dice la parola stessa, è un tentativo di andare oltre, di rompere gli steccati che dividono normalmente i generi, i festival e anche il diverso pubblico. Grazie allora a Filippo Taricco, direttore artistico del Festival Collisioni. Abbiamo visto un mix fra musica, concerti, libri e anche, abbiamo detto, buon mangiare e ottimo bere. L'appuntamento è a Barolo, provincia di Cuneo, dal 18 al 21 luglio. Il programma su collisioni.it. E a proposito di festival, vi ricordo anche che domani è l'ultimo giorno del Festival Letteraltura 2014, è il Festival della letteratura di montagna, di viaggio e di avventura a Verbania. Ma, come sempre, ci sono, come dire, delle appendici a questo festival. Quindi, Festival Letteraltura anche il 5-6 luglio a Domodossola e il 13 luglio sul Lago d'Orta. Basta naturalmente andare su internet, cercare Letteraltura, c'è tutto il programma. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi, una buona lettura da Alessandra Tedesco.